un po' di venticello ci ma la giornata ma c'è un po' di venticello. Sì. Natalia, bisì. Natalino è caduto dalla sedia. E beh, cosa stai combinando? Aspetta un secondo giù. Un secondo, dammi un secondo che devo fare un attimino una cosa, aspetta. Vai. Non si è sentito nessuno stasera, ma nessuno. Se hanno andati tutti in giro. Al mare magari. A vedere le onde alte 5 metri. Le onde elettromagnetiche che ci sono in giro. Le onde magnetiche, allora, quelle alte lì, quelle che portano la propagazione. Ma scusa, Giulio, sempre bene sto uscendo con questa radio? La radio sta uscendo bene, il microfono non è molto bello. È nasino e cupo. Ok. Tu stai arrivando bene, come sempre, qua, tutto roggio. Perché io sono il numero uno della qualità. Non della quantità. No, della quantità, no, della qualità. No, con 2 watt non posso essere della quantità, ma della qualità non ci sono dubbi. Ottimo per la truppa, ottimo per la truppa. Io ho sempre curato la qualità e mai la quantità. A me della quantità non sono ingordo, non sono ingordo, non me ne affutti nulla della potenza. Intanto siamo tutti vicini, come diceva quello là. E allora, più vicini di così, cosa vuoi fare? Come hai potuto vedere anche ieri, mi sembra, se non so se tu ci eri, con 2 watt a Itiri tranquillamente, senza nessun problema. C'era Leone da Itiri, no, non è ieri, no, qualche giorno fa. Leone, il vecchio Leone di Itiri, Antonio Leone. Forse ne ascolto, sì. Probabilmente ne ascolto. Vabbè, c'era lui. Ah no, c'era Natalino. Poi c'era questo Antonio Leone, che è un vecchissimo CB, ai tempi di quando c'era anche Serafino da Osino, parlavano insieme, e Tonino da Useni, erano amici con Tonino. Saranno amici, non lo so. Infatti glielo ho anche chiesto, ma mi ha detto Tonino non ha più niente, ha venduto tutto. Probabilmente c'è stato quel periodo che proprio non c'era più nessuno e probabilmente uno ha pensato mi vendo tutto, intanto non c'è più nessuno, perché mi sembrava che per un po' di tempo era tutto chiuso. Tonino Rausini è da anni che ormai non trasmette più. Io penso che saranno già più di 10 anni, sì. Sì, infatti prima andava d'accordo, perlomeno penso ancora oggi, non lo so, con Gio Maria si incontravano anche, si vedevano, insomma, dunque parlavano sicuramente di frequenza. Non c'è stato un periodo comunque che la 27 era morta del tutto, così mi ricordavo. No, da 52 anni a questa parte non è vero, qualcuno dice così, ma che è convinto che l'ha fatta riprendere, invece ci siamo sempre stati io, Gio Maria, Tonino da Usini, Emanuele Ponzio Pilato, poi Mario Mao, qualche altro che adesso non mi ricordo nemmeno. Non siamo mai mancati, mai. Ci siamo sempre stati. Qualcuno ha voluto arrovare il merito, dice che l'ha fatta riprendere la frequenza, ma non l'ha fatta riprendere proprio per niente, perché noi ci siamo sempre stati. E quando non eravamo in 27, eravamo in frequenza marina, eravamo sempre, perché allora avevamo il ricevitore, il trasmettitore marino, e parlavamo un po' in un posto, un po' nell'altro, tutti quelli che ti ho menzionato. Perché poi c'era il periodo del PMR anche. perché io mi ricordo che, boh, che si era passato in PMR per vedere se si svegliava qualcosa. Ma il PMR c'era nel PD, abbiamo parlato per qualche anno nel PD, ma sto parlando di almeno minimo 10-12 anni fa. Infatti con l'LPD addirittura parlavamo con uno di Genova, che lui ci acchiappava perché puntava l'antenna direttiva in Sardegna, e chiunque anche dalla strada, io mi ricordo la notte andavo a buttare la Mondezza, perché allora c'erano i cassoni anche qua, non era la cosa, la raccolta porta a porta, bensì c'erano i cassoni come a Sassari, e andavo a buttare la Mondezza e mi portavo il portatilino, cioè il PMR, che poi lo facevo funzionare nelle PD tranquillamente, parlavo con Genova senza nessun problema, io e tutti gli altri, chiunque parlava con questo di Genova. Ma infatti mi ricordavo che avevo fatto qualche direttiva di 4-5 elementi in quel periodo. Appunto, ma quello è venuto dopo quando hai cominciato a usare, siamo stati con il PMR, ma prima del PD, chi ce l'aveva? Non ne aveva nessuno, non ce n'era bisogno, nel PD si arrivava dall'altra parte della terra quasi. E lo sto dicendo in diretta con Genova, a qualsiasi ora, sempre. Mi ricordo, dopo pranzo, tutti i giorni, io avevo un coso, come si chiama, un Baofeng avevo, e chiamavo, che poi non era proprio un Baofeng, era un altro che poi non ce l'ho più perché mi si era guastato e ce l'ho buttato, e lo chiamavo tranquillamente, rispondeva senza nessun problema, me ne salivo su in terrazza, me ne salivo da lì, arrivavo ancora meglio ovviamente, e lui mi rispondeva, e poi entravano tutti gli altri nelle PD. E avevi l'88, se non sbaglio, quello nero. Uno nero era, però era uno aspetta, cosa era? No, forse era un Kibud, forse. No, non era un Kibud, no. Come si chiama? Una cosa del genere, non mi ricordo. Whistle, una cosa del genere. Però credo che fosse stato un qualcosa di professionale, credo. E il Vox non avevi? Il Vox, sì, Vox, una cosa del genere, sì, quello lì, già mi è capito, adesso la parola precisa non te la so dire perché non me la ricordo, però era quello, e io lo usavo in LPD, perché allora era in voga l'LPD, ma lo usavamo tutti, poi naturalmente c'era tanta gente che a Sassari aveva anche l'antenna per i 2 metri, cioè lo usava anche con l'antenna, ma io l'ho sempre usato con il gommino, come oggi lo stesso, se dovesse capitare il PMR io lo uso con gommino, anche l'altro giorno stavo parlando con Tino, con un Gavino, col PMR, tranquillamente, per cui non c'è problema. Io da dentro casa, se poi me ne vado sul tetto, allora era grande. Addirittura avevo collegato la Corsica con coso. Sandro di Porto Torres lavorava, allora faceva un altro lavoro, andava in giro, una specie di rappresentante, non lo so cosa di preciso facesse, ed era in Corsica. L'ho collegato almeno 2 volte col PMR, lui in macchina, nella punta più alta della Corsica, e io a salire a casa, insomma, ecco. Vedi, era comodo allora, hai visto? Sì, l'UV8D mi sembra che si chiamasse. Non me lo ricordo, la verità, non me lo ricordo, di preciso non me lo ricordo. Era comunque analogico, mettevo la frequenza, mettevo 433.075, era quella la frequenza LPD che usavamo. Oggi invece dice che l'LPD lo usano in quelle frequenze lì, premesso che ce n'erano 20, 21 canali. Fanali, mi sembra, per i CB, e gli altri poi invece erano per la cosa, per gli rematuri. Adesso dicono che usano, lo usano tutti gli rematuri sui 432, 433, non so di preciso. 0,75 mi sembra. Sì, sì, sì. Che ci vuoi fare? Ah, io ho l'888 mi sembra, che avevo programmato tramite computer, perché non ha display quello, capito, è canalizzato, e se per memorizzare i canali dovevi metterlo tramite computer. Quello ce l'ho, quello famoso, quello che doveva essere scramblato, non è riuscito, ma comunque funziona, funziona tranquillamente con quello, uscendo da Bricomen, arrivavo da Gio Maria, perché allora si usavano PMR, lo usavo tranquillamente così e non lo perdevo, sino ad arrivare a casa, sino ad arrivare anche in bottega andavo e parlavo con Gio Maria tranquillamente la mattina con quel PMR lì. Sì, ma mi sembra che hanno fatto qualcosa per la 27 di piccolo, comunque, di tipo i Maufeng e quella roba lì, mi sembra. Questo non te lo so dire. Adesso hanno introdotto di nuovo un esame di cosa bisognerebbe fare per l'adiamatore, che puoi usare solo V e U e basta, niente di più. Poi quanti watt puoi usare non lo so. Si chiama patente N, praticamente come era la speciale prima, no? Che potevi usare solamente i 2 metri, e adesso hanno reintrodotto quello, basta un esame per poter avere quella patente lì. Praticamente N come novellino, in poche parole. Sì, ho visto, ho sentito anche. Ogni tanto c'è qualche novità per invogliare, magari. Vogliono invogliare sicuramente, perché si sono resi conto che non ci sono più tante persone che si stanno avvicinando al mondo della radio, ma comunque a me non me ne dà tutti nulla, figurati alla mia testa e mi metto a studiare. Prima magari avrei dovuto farlo e non l'ho fatto perché il tempo non me lo permetteva, perché lavoravo e la notte rientravo sempre al buio, uscivo al buio e rientravo al buio, poi durante la notte, anche quando era addormentato, stavo sempre lavorando, perché stavo sempre pensando all'indomani, organizzandomi per l'indomani, un po' per tutto, no? L'acquisto del materiale, le consegne, il lavoro fatto e i versamenti delle tasse, ghidasse, un sacco di balle, tutti i santissimi giorni. Lavoravo 24 ore su 24, perché anche quando ero addormentato sognavo il lavoro. Perché con la testa sei sempre al lavoro comunque. Certo, perché così qualcuno non vuole proprio. Non è che avevo qualcuno che mi facesse il lavoro per conto mio, no? Me lo facevo io e basta. Per cui quando qualche volta ho avuto qualche ragazzo, ma calendai, era meglio, la rapidi. Il panino tutti i giorni, quello sì, non c'era dubbio. Ci voleva sempre. Poi un giorno mi ricordo stavo lavorando alla Topi, stavo lavorando, e mi fa, dice, Giulio, fammelo fare a me, quello già lo so fare io, non c'è bisogno, fatto, no, lo faccio io, questo scherzando, sai che è pericoloso la macchina. E fatto, mi convince, prendo e gli faccio tutta una cuffia particolare alla macchina, che anche se ti volevi farti male non ti potevi far male, perché era completamente coperto l'albero di taglio, no, della macchina. Caspita, prendo, lo metto a lui a fare, ne ha fatto una decina di pezzi, ha fatto, caspita, però questo rumore, dice, mi fa venire il sonno, il sonno ti fa venire. E il rumore ti deve svegliare bene, ma bene veramente, perché stai facendo un lavoro che senza questa cuffia che io ho perso tempo a fartelo, è anche molto, ma molto pericolosa, che tu non hai idea, capito? Per dirti, no, come i giovani di allora, di oggi, ma che dai. voglia di lavorare, saltami addosso. Infatti no, non ce n'è voglia per i giovani di oggi. Poi si lamentano che vogliono avere una bella vita con i soldi in tasca, eccetera. Ma se non hai gana di lavorare, cosa vuoi fare? Ma per dirti, no, allora ascolta, fa una cosa. Adesso tu vai a casa stasera, lo dice a tuo padre che io ti ho messo a lavorare così e così, e che tu mi hai detto queste esatte parole. Né macco e né savio, andate bella di tua vera all'uomo, rimane che lì non ci andare più, dice, perché tu non hai voglia di lavorare. Gli ha detto, io ho parlato col padre, poi magari la figli sono tutti così, queste ragazze non c'è niente da fare, vai, anzi ti ringrazio, però guarda, adesso non so benissimo, perché prima era con me questo ragazzo e non aveva voglia di fare niente lo stesso, perché anche il padre faceva il muratore, e l'aveva portato con sé, dice, troppo pesante era la caldarella, dice. Per dirti, no? Se lo vogliono scegliere oggi il lavoro più leggero possibile. E allora, vogliono niente, fatica e soldi in tasca, ecco com'è il discorso. Per dire, vabbè, comunque. Poi tornando al discorso della radio, del baracchino, si sa, allora io parlo degli anni 70, ad esempio 80, c'erano le gare, a chi era più forte, c'era tanta di quella gente, canali, di solito eravamo 23 canali, qualcuno aveva i 40, qualcuno aveva anche i 40, i 40 canali, o i 45 addirittura. E allora si cambiavano i quarti, si cambiavano, infatti ne ho ancora un po' di quei cardi, quei quarti, da una parte li ho messi, non so, magari dove sono, già, ma se li cerco già li trovo. E per cambiare canale, tante volte per andare oltre il 23, cambiavamo il quarti, li compravamo lì alla GBC oppure alla Fusaro, mi ricordo, mi sembra che costassero una coppia, uno per trasmissione e uno per ricezione, intorno ai 5.000 lire, una cosa così, costava, allora c'era la lira chiaramente, era un sacco di spese, sembrava così, ma era un bel dinami allora, anche perché i soldi erano quelli che erano, per cui, però per la passione ne abbiamo speso tanto soldi. Però non l'unico mezzo di comunicazione, però quasi, per quello era pieno, perché era un mezzo di comunicazione, poi piano piano è uscito il telefono, boh. Infatti col tempo poi ci sono state altre novità, il telefono, il computer soprattutto, se no prima si stava fino a tardi, quante volte fino alle 3, 4 del mattino, e qualcuno anche fino alle 7, qualche volta anch'io, ascoltando, magari non parlando fino a una certa ora, poi a un certo momento ho detto, beh, adesso dormo, e invece non dormivi, e fasi quasi, dallo baracchino al travaglio l'indomani, per carità. Allora c'era tanta gente che parlava, c'era Monforte con la moglie, Monforte era il direttore dell'Automobile Club di Sassari, Altalena, Corsaro, poi c'era Luce del Mattino, poi insieme al marito Intrepido, tutta questa gente qua, Freiber, c'era, cos'è? Un sacco di gente, si parlava sino a tardi la notte, Mariolino, D'Alghero, poi l'altro, quello che è al bar, che abitava al stesso vicino, amico di Mariolino, che Mariolino è morto ormai da anni, dunque si facevano anche le gare, a chi era più potente, dai, le gare tra dopo in seguito, però quello è venuto un po' dopo, tra Walter, che era sempre più forte praticamente, tra Walter e il radiotecnico, come si chiama, non me lamento, quello di via Nizza, o via Mosca. Tutti i canali c'erano pieni, lascia perdere, mi davo pochi di qua più, con 548 SX. Infatti, io avevo avuto in quel periodo, ho avuto 50-24 della Tokai, poi avevo il 294 della della, me lo metto nel manco, l'avevo comprato da Costantino qua, la mia principessa Maria, l'avevo comprato Inuit 294, stazione base con orologio, era con la sveglia anche nell'orologio, ed era 23 canali, me la metto, l'avevo pagato dando, sto parlando di allora amici, avevo pagato 150.000 lire, un sacco di naira il mio Luca. Ah, per come hai parli. Caspita, eravamo molti soldi, sì, già me lo ricordo. E via. Sono passati in fretta questi anni, la tecnologia poi ha veramente corso tanto. Infatti, poi avevo l'Intec 500S, avevo, poi ho avuto anche il 34S, ho avuto sempre in quel periodo, tutti insomma soldi già ne avevo speso abbastanza, poi avevo un Polmar 80 canali, avevo, c'erano 40 normali e 40 sopra, no, o sotto, adesso non mi ricordo nemmeno, forse era sotto, 40 canali sotto erano, insomma già ne di peso vai, l'antenna avevo sempre la Grand Play, avevo poi successivamente, avevo preso la Stellar 16 radiali, ogni radiale 70 cm lungo, questa è la giudenza, questa antenna è una giudenza roba di 35 anni, non si rovinava mai, era un'ottima antenna veramente. Ma prima le facevano bene, come la Mantova lo stesso. La Mantova da quando era uscita che la comprava all'epoca, le durava 30 anni davvero. I materiali però forse erano migliori anche. Adesso è tutto a risparmio, così che si risparmia sul prodotto, sul materiale e alla fine ha un costo che tutti si possono permettere, diciamo. Beh certo che sì. Infatti la Mantova ho avuto la Turbo, le altre due non mi ricordo di aver avuto nemmeno la 5, non mi ricordo la verità, sono passati 52 anni, Luca, ho passato un giorno, 52 anni più, comunque la Mantova Turbo che poi ce l'ho sempre, era un'ottima antenna, per me era stata un'ottima antenna, l'ho usata per almeno 12 anni, 13 anni, da buona era giovarada, e ce l'ho sempre, è conservata da una parte, per dire no, è nuova, nuova mia, è nuova, nuova, nonostante tutti gli anni. L'unico problema era che quando, alle volte, quando faceva molto vento, come si muoveva, non rimaneva cortocircuitata. E allora me l'avevo scesa un paio di volte, l'avevo rifatto di nuovo bene il contatto, perché la bobina è un'impedenza, cioè no, dalla base, che è praticamente la continuità del filo, dello stilo centrale, ed è collegata con questa impedenza alla cosa, alla massa che va attaccata al palo. C'è un taglio in verticale, siccome il filo è un filo di quelli da avvolgimento motori, dai, così diciamo, di quelli isolati così, no? È incastrato dentro così questo coso, è ribattuto con un cacciavite praticamente, ho fatto 4-5 tagli con un coso, è battuto perché quando tu premi l'alluminio si allarga e tocca e va in contatto. Per un paio di volte non faceva più contatto nell'otto scesa, però l'antenna funzionava sempre bene, non era più cortocircuitata a poche parole, ma l'antenna era sempre la grande, funzionava sempre, stazionaria sempre normalissime, sempre 1-1, non c'era problema, e ce l'ho ancora, ma adesso poi quando l'avevo montata l'avevo rimessa a posto, adesso se la dovessi piazzare è cortocircuitata. Ma ne ho sentito parlare molto negativamente però, quasi tutti dello stesso difetto parlavano, vuol dire che è nata così e tutti trovavano quel difetto lì, infatti, tutti. L'unica era la Mantova, la 1, la C, ho avuto la 1, però la 1, la 5, comunque, e poi penso che ancora chi ce l'ha la 1 o la 5 se la vende a 100 euro anche di più, se per quello io l'altro giorno quando ero fatto ieri stavo guardando al computer la mandava a turbo, addirittura ho visto uno che la vuole vendere 300 euro, che ma qua gli ho fatto tra me, se io l'avevo pagata 145 euro, l'avevo fatto arrivare dalla provincia di Torino, in Piemonte insomma, no? Da quella zona lì l'avevo fatto arrivare. Ma ripeto, l'antenna era ottima, poi il fatto di non essere controcircuitata alle volte quando succedeva quel discorso lì, è perché più che altro ne ho parlato io frequenza, che io già essendo il Bignolo e che cose mettevo il test e controllavo se era controcircuitata, e allora siccome io pensavo ma se l'antenna è nata controcircuitata per quale motivo io non la devo avere controcircuitata, allora mi veniva la voglia di scenderla e l'ho scesa due volte e l'ho messa a posto due volte, l'avevo messa a posto, però l'antenna non c'era bisogno di scenderla, e se non ne parlavo io per questa, che l'antenna non era più controcircuitata, nessuno se ne sarebbe mai accorto, perché l'antenna funzionava sempre bene, avrebbero sempre continuato a modulare anche chi ce l'aveva la mantova a tubo tranquillamente, senza rendersi conto che non era più controcircuitata. Sì, anche la mantova era cortocircuitata, se non ricordo male. Però a turno gli hanno fatto questo difetto e non l'hanno. Vabbè, secondo me ne hanno prodotto anche pochi esemplari. Se forse hanno prodotto più Mantova 1.5 che non un turbo. Beh, sicuramente da Mantova turbo ne hanno fatto di meno, perché poi la Sigma ha chiuso i battenti e dunque non ne hanno più un prodotto, è ovvio. Però penso in giro per l'Italia qualcuno in qualche negozio probabilmente si trova, solo che bisogna sapere individuare quale negozio, perché io ne avevo sentito tanti di negozi che non ce l'avevano più, no, dice non è più in produzione, eccetera eccetera. Però come struttura era meravigliosa, intanto il primo tubo, quello alla base, era 4 cm e mezzo di diametro, intanto no. Poi andando e defalcando sempre la misura del diametro nei vari elementi, no, è ovvio. E nonostante tutto il vento che ha preso, lo stilo centrale era sempre bello, dritto, tranquillo. Qui mi hanno fatto non mi hanno fatto nemmeno cadere i radiali, perché i radiali sono lunghi 1,60 m e sono da 10 mm tubolare, però non sono pieni. E tante volte vedevo i piccioni, qui c'è una schiera di piccioni nella zona dove sono io, si mettevano e quando spiccano il volo, guarda, tu vedi il radiale che vibra in maniera impressionante, dice mi avanti gaggi, e invece no, non ho mai, nemmeno lesionato mai, e ne ha 8 di radiali, per dire, no? Io li avevo cambiato io il bulloncino, li avevo messi tutti quanti in acciaio inossidabile, perché quei radiali erano pensati con un bullone zingato, se non mi piace, io l'avevo comprato da Palmieri, e quelli in acciaio inossidabile li avevo tutti sostituiti. E ancora oggi quando l'ho smontata era un cosa bruttina, no? Non la minima fatica, niente, va benissimo, ed è perfetta, veramente. Sì. Anche qua si posa la cornacchia, però si posa proprio la base, capito? Proprio la base, si siede. Però non gli ha, sono 1,70 i radiali. Però non li fa niente. Beh, la Grazioli sì, 2,70 sono della Grazioli, 2,75 sono. Beh, però non. È bella, sicuramente è una gran bella antenna, ma a me queste radiali così lunghe la verità non piace. Mentre invece nella Stellar che avevo prima ce n'erano 16 radiali, quelli erano da 8 mm i radiali, e anche quelli tubolari, e a uno a uno me ne hanno buttati proprio i piccioni, ma sono passati anni, però è tanti anni, la giudizia 35 anni, ti puoi immaginare. Poi l'ultima volta che me l'ho scesa, erano state 3 o 4 o di più il radiale ancora attaccati, ma tutti gli altri ormai non c'erano più, si potevano sostituire volendo, ma hanno fatto, magari me lo faccio fare, preso nella torta e ho cambiato, l'avevo ordinato la moto a tubo, ma sto parlando già una quindicina di anni fa, perché l'ho usata almeno 12 anni, 13 anni, allora la Game Master ce l'ho 3 anni, 4 anni, boh, di preciso, no, forse 4 anni, dai. Compreso anche quella che avevo autocostruita, e poi ne ho un'altra autocostruita, lo stesso, messa da parte, l'avevo provata, andava bene, appoggiata al muro mi dava un trailer stazionario, però poi non l'ho portato avanti nemmeno per la caratura, tanto è vero il filo, quello da elettricista, il filo finale, ne avevo lasciato una quarantina di 10 centimetri fuori, lungo, per poter tagliare, no, eventualmente, e invece non l'ho mai potuta piazzare a delle staffe per non fare lavoro inutilmente, diciamo, dai, nel senso che bisognava togliere l'antenna che ho per mettere quella, e poi magari solo con l'osmetro cercare di tararla, ma non me ne ha fatto nulla, comunque lo metto da parte, ce l'ho. Discorso, non le paro così quella. Sì, la misura del filo faccio quella, non mica taglio, non faccio più lungo, a meno che non la devo fare per una determinata frequenza, capito? Se no io agivo sul condensatore, ma proprio roba millimetrica ed era a posto, capito? Oggi dammi 10 minuti che cambio radio, che questa la devo staccare per spedire. Ok, d'accordo, fai. Sì, ma intanto mi ascolterai lo stesso, stavo dicendo, quella tu non lo fai con l'analizzatore, ma io l'analizzatore non agio, perché l'ho fatta con l'ormetro e basta. Vabbè, cambia. Buonasera. Mi stavo ascoltando, ma mi sto preparando perché devo uscire stanotte, quindi mi sto preparando a portare giù il cane, eccetera, eccetera, ma vi sto ascoltando molto volentieri. Ah, ho capito già. Vabbè, se devi uscire, buona parte già, sai cosa vuoi che ti dica. Se ti vuoi trattenere, sei ben accetto, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Anzi, è un piacere. No, mentre mi vesto ci sto, non c'è problema. Sto aspettando che arrivi un caffè, così almeno questa è in compagnia. Ha cambiato il radio, perché quella che stavo usando, dice, la deve spedire. Perché lui è un compravenditore, come lo vuoi chiamare, un compravendita fa sempre lui, compra e vende, fa bene. E io mi affeziono, quando mi piace un apparecchio non lo voglio dare, non mi piace venderlo, se mi affeziono non mi piace dare. Certo, ma lui ne ha tante, ne ha professionali, ti puoi immaginare, caspita, ne ha 4 mi sembra, una cosa del genere, e cosa se ne fa di 4 HF? Li prende, li vende, man mano che li compra, li vende, perché magari lui partecipa all'asta, sai, e gli conviene, fa bene, fa, è un lavoro, anche quello è un lavoro, perché no? Se vuoi guadagnare qualcosina, intanto lo vendi e poi ricompri, vendi e poi ricompri, se che sei sempre attivo, no? Quello sì, però so, vabbè, io già non ho di queste pazienze. Io è vero, io quello che avevo l'ho dato, per cui non mi frega più niente, no? Mi tengo il baracchino e me ne rimango con quello. Per cui, sì, magari, guardate che un domani mi salta in mente di nuovo di comprarlo uno di quelli, il microfono ce l'ho, ma non è quello il discorso. Ma non credo però, non credo che me ne salta in mente, cosa me ne posso io alla mia età di andare a spendere soldi per cosa, anche perché intanto non ci posso stare lì in quella frequenza, perciò me ne rimango qua tranquillo e pacifico. E più che altro per fare ascolto, dai, fai ascolto e ma ci sono i ricevitori anche per quello. Appunto, ci sono ricevitori anche per l'HF con 40-50 euro, 60-70 euro massimo da Amazon, ci sono i ricevitori che sono una radio normale che ha tutte le frequenze HF e anche la radio normale commerciale, per cui oppure ascolto PMR in 2 vetri, che problemi ci sono, no? Posso sempre posso sempre difendermi, che poi volendo posso ascoltare in 2 metri anche con questo, ma non ci sono mai andato a ascoltare, con questo posso ascoltare anche in 2 metri volendo. Io non ho nessuna pretesa, guarda, non ce l'ho manco più, ce l'avevo ma l'ho dato, non me ne faccio nulla, non li uso, intanto era chiuso nell'armadio, non lo usavo. Infatti io ho PMR, anche quello a tante frequenze, cioè basta che digitare la frequenza che mi interessa e posso ascoltare, infatti tante volte ascolto lì su 430 e qualcosa, oppure su 145 e 525, per cui poi qualcuno lo usa per chiamarsi e darsi appuntamento e va bene lo stesso, so anche quella frequenza, per cui tante volte ci passo io anche per un saluto, capito? E poi bene, dai. Ma io non è troppo accendendo, anche perché io antenna fuori non ne volevo mettere, quindi mi rompono le scatole già per questa qua, figurati se ne metto altre di antenne, no. Poi se dovuto salire ho avuto un problema con l'antenna. No, senza antenna, io sempre col gommino, senza antenna già, no. Non ho bisogno di io da qui tranquillamente, anche da poco stavo parlando con Tino, stavo parlando tranquillamente con Gavino di Porto Torres, che poi non è a Porto Torres, vabbè, è a Sorso più o meno, nella strada di Sorso. E tranquillamente PMR, da dentro casa, da dentro casa. Se poi salgo sul terrazzo, allora vado a fondo scala, perché poi immagino da Tino a fondo scala, dal terrazzo. Da qui dall'appartamento, da dentro casa non lo so, però mi sente benissimo, ma adesso tranquillamente, e penso che con un segnale alto lo stesso, per cui non c'è problema. Io quando avevo il PMR, però proprio PMR con pochi milliwatt, sono arrivato fuori continente, però quello là c'aveva la direttiva, ma l'ha puntata e mi sentiva. Negli anni passati, non ti ricordi, quando c'era il tempo dell'LPD, c'era quello di Genova che parlavamo tutti, parlavamo con lui tranquillamente, con pochi milliwatt praticamente, non c'era problema, ma era lui che ci acchiappava, non è che eravamo noi che arrivavamo. Ad ogni modo, il PMR, tu puoi chiedere a Sandro di Porto Torres, io con lui ho fatto collegamento, lui in Corsica, nella punta più alta della Corsica, e io a casa, tranquillamente, almeno 2 volte, 2 o 3 volte ci siamo sentiti, quando lui faceva il lavoro che andava in giro in macchina, forse faceva il rappresentante, non lo so di preciso. Tu puoi chiedere a Sandro e ti può confermare che io ho collegato lui quando lui si trovava in Corsica, proprio col PMR. Col gommino. Sì, col gommino. E se lo chiede Antonello lo stesso chiama la Corsica lo stesso. Vabbè, Antonello è in una zona alta, io no. Ma per dire no. Basta avere la canalizzazione giusta, tranquillo. Oppure sempre con Sandro da qui a Sentino, tranquillamente, senza nessun problema. A voglia. Oppure quando con un amico che era in barca, ed era anche molto lontano, vabbè, lui era in mare, era in barca, parlavo lo stesso, sempre col PMR, ma sapendo la canalizzazione giusta, poi ci sono altri posti che invece non mi sento e non li sento. Oggi io ti devo lasciare perché già tardi, se no vengono a prendermi e non mi trovano pronto. Mi dispiace che non sia arrivata ancora Luca, però ti devo lasciare purtroppo perché se no non ce la faccio a fare il tutto. Dai. Ci sentiamo, ti auguro una buona serata, grazie per il piccolo QSO, ma vi ascoltavo mentre facevo le cose. Dai. Ci sentiamo, buona serata. Ok, ciao già, grazie a te per la compagnia, dai, sei stato molto gentile che mi hai accompagnato fin quando non arriva Luca. Luca, sei lì? Un attimo, sto imballando giù. Vabbè, imballa. Imballa bene però, mi. Occhio che non ti imballi né a te. Come si dice a Sassi, eravate in ballo, ti ricordi già, eravate in ballo, se non ti cagli mudo. Dice, non ti dice. Che vuoi? curia di qui in balla. E vabbè, d'accordo. Di nuovo ciao Gianni, grazie ancora per la piccola chiacchierata, dai, ci sentiamo. Attendi pure per i tuoi doveri e le tue cose. Ti fai curare, rompami la valigetta. Ciao, ciao. Ciao, ciao, già, alle prossime, ciao. E chi era quella portante? Avanti. Natalino Alfa 1, Bisese. Tutti in villeggiatura sono. Ciao Marco. Beh, tutti in villeggiatura. Oggi è una giornata bella per cui il tempo lo permette ed è giusto che ci faccia quattro passi chi ne ha voglia. Ciao Giulio, vabbè Gianni si sta ancora ascoltando, e stava andando in cucina, qui era acceso e noi siamo andati primo pomeriggio da Tavona a pigliare un gelato, perché poi si riempiva di gente, a me di fare file per un misero gelato non mi va. E così girettino, poi tornati a casa, un po' riposato un attimino, mi è venuto una biocchetta, no? E so, vabbè, stavo in lavatrice, devo stendere roba, qualcosina al computer, insomma. E così, dai, ero entrato più che altro per salutare Giulio, più che restare in rotta, se no poi non combino niente. Come ha detto Gianni un attimo fa. Sì, ho notato che rispetto ai giorni feriali, proprio il sabato, la domenica è la giornata dove c'è meno gente. Proprio meno, c'è una volta zero totale, proprio non trovi nessuno. Anche se chiami, magari sono 50 all'ascolto, ma non risponde nessuno. Capo. Marco, il sabato, a fine settimana, la gente esce, magari va in pizzeria, va in ristorante, insomma, diciamo, perché durante la settimana magari si lavora, il sabato invece uno è libero e dunque ne approfitta per fare quattro passi e fare un qualcosa di diverso di durante la settimana, è ovvio. Sì, ma va bene, non c'è problema, ci mancherebbe. Io quando esco a ascoltarli la sera in piena estate, parlo dell'estate, quando c'è molto caldo non ci vado io sotto il soleone, oh, ma manco mai idea. Prima, quando ero giovane, già ne facevo di campeggio, anche 4 mesi all'anno ne facevo, io e la famiglia di campeggio, ma ormai siamo troppo anziani e non è possibile poter andare via a stare sotto il sole, no. Della maniera più, anche perché nemmeno mia moglie se la sente più, per cui ce ne rimaniamo tranquillamente a casa, oppure arrivano parenti, oppure andiamo da parenti, ed ecco, si trascorre lo stesso la giornata, non c'è problema. Sì, anche se Giulio, in realtà i pochi che parlano su 10 alla fine, tutta gente magari che non è che vada proprio in pizzeria a fine settimana, non è che esca a fare passeggiate, siamo molto casalinghi se vogliamo, nessuno va a fare il vitellone in costa a fine settimana né niente, sia per acciacchi sia perché non ne ha più voglia, ecco. Però nonostante ciò, alla fine sabato e domenica è più vuoto. Oggi, vabbè, ho sentito voi due, non so se fosse Luca, ho sentito nominare Luca. È più vuoto, dai. Magari uno si dedica comunque a altro, anche se stando in casa uno si dedica comunque a altre cose, che sia la cura personale, la cura della casa, eccetera, capito Giulio? E cosa ti vuol dire? Come nominate il campeggio? Adesso mi stavano venendo in mente gli aneddoti di Graziano, quando raccontava che facevano questi campeggi, poi puntualmente all'ora di pranzo vedevi materializzarsi all'orizzonte nipoti, pronipoti, che non solo non portavano un'oliva, a dire un'oliva, però arrivavano con fidanzate, amichetti, cose, si busavano e mangiavano a sazietà e poi senza nemmeno lavare un piatto, come erano comparsi all'orizzonte, scomparivano all'orizzonte, tant'è che una volta lui si era buriato e gli aveva detto, dice, non va bene così, non venite a mangiare, non aiutate, non fate nulla e poi ve ne andate. Sì, perché succede così, perché quando sanno che sei in campeggio, sei organizzato come facevo io, che avevo una bella tenda grande, che poi tra l'altro mi avevo creato un cuscinino smontabile, praticamente era immaginati una porta con le cerniere e si infilava uno con dentro l'altro e facevo la cucina e lì dentro c'era tutto l'occorrente per mangiare, la cucina, da cucinare, tutta l'acqua che serviva, la birra per gli ospiti, perché tanto venivano tutti, ma era, guarda, una cosa faticosissima, non solo per me, ma anche soprattutto per mia moglie, perché poi cosa succedeva? Quando era il momento di pranzare, no? Tutti quanti si alzavano, si occupavano le sedie, che avevo diverse poltroncine io, avevo, e quasi quasi non c'era una poltroncina per me, per dire no. E poi lasciavano tutti i piatti così, e doveva essere mia moglie a ritirare tutto e a lavare tutto lì. No, non va più bene così. E l'ho fatto per anni questo discorso, l'ho fatto, poi alla fine abbiamo cominciato a avere la nostra età, ho fatto, ma me lo vai a andare a fare, dice, tutto questo sacrificio enorme così, no, non ne vale più la pena. E oggi come oggi, meno che mai, non è possibile poter vivere una vita così, alla mia età e all'età di mia moglie, dai, mia moglie che ha 72, 73 anni subito, figurati se noi abbiamo voglia di andare in campeggio e fare la vita di allora, quando eravamo più giovani, no. Ma sì, perché è un lavoro impegnativo, cioè se tu metti in conto la fatica già di arrivare, piazzare tutto, stare lì anche, perché alla fine è estenuante, col caldo dell'estate, tutto quanto diventa estenuante, come chi ha il camper. Io ogni tanto seguo questi che fanno il giro del mondo in camper, no? Ma anche che stanno in Sardegna, in Europa, così vanno in Nord Africa, questi posti qua. E lì praticamente devono fare un saccaccio di roba, tenere batterie cariche, svuotare contenitori, insomma alla fine anche qui non lavoro me. Poi tutto orario, a quell'ora si mangia, a quell'ora si va a dormire, insomma alla fine non è... Quindi anche quello impegnativo, poi dipende quanto viaggi, C'è una coppia per esempio che sta facendo il giro del mondo, ma in certi posti è di una pericolosità estrema anche passare. Poi c'è chi si rompe il mezzo, che si è in mezzo al deserto, da quelle parti là, è veramente pericoloso lì. Va bene, qua si sta parlando, noi stavamo parlando di campeggio normale, no? A due passi da casa, eccetera. È comunque impegnativo anche quello. Giusto, lo puoi fare da giovane, però poi ti imbassa la gana. Insomma, mi ricordo di Graziano, appunto, che lui era anche molto schietto e non te la mandava a dire. E quindi quando vedeva nipoti con fidanzatine, portava anche loro a mangiare gli amichetti, alla fine lui non te la mandava a dire, capito? E glielo dicevo. E fa zia, ciao Natale, come va? Sì, adoro Cristiano, sto male, ciao Giulio, sto ben male. Vi stavo ascoltando, ma non ho voglia di parlare, dai. Ciao Natale. Sì, è così, Marco, non è possibile. Poi la cosa più che mi dava fastidio, per modo da dire, perché non è che mi preoccupavo più di tanto. Da una sera arrivo, perché io viaggiavo, andavo a lavorare, la famiglia era giù e io andavo a lavorare. Una sera rientro e faccio a mia moglie, apri una bottiglia d'acqua minerale, guarda, no, non ce n'è più. Come non ce n'è più? Te l'ho portata stamattina all'ora del pranzo, io sto parlando della sera quando sono arrivato là poi in spiaggia, non ce n'è più, è tutta consumata. Per forza c'erano 30 persone, c'erano 30 quanti lì nella mia tenda, tutti i nipoti, i cognati, cugini, di tutti. È sempre a mie spese, non è che a dire portavano qualcosa, poi in caso strano arrivavano sempre all'ora del pranzo, no? I furbi arrivavano sempre all'ora del pranzo, infatti io lo sapevo e portavo qualcosa di più in abbondante in modo per poter invitare anche loro, perché se ti trovi davanti e devi pranzare cosa fai? Sei obbligato a invitarli, no? E allora faccio, che se non c'è, sì, dice anche la birra, dice, sono consumato tutta la birra, la birra. Caspita, io che non le bevo di birra, l'ho portata qua per gli ospiti e tu da pranzo alla sera ti bevi tutta l'acqua minerale e tutta la birra. Sono consumato tutto, non c'è la birra neanche. Ho dovuto andare lì al mar vicino che c'era per comprare l'acqua minerale di nuovo, o Marco, ti immagini? Sì, sì, come le locuste praticamente, passavano, consumavano tutto il consumabile e poi sparivano via. Aspetta, ho sentito qualcosa sotto, qualcuno che chiamava sotto, oppure propagazione, chi è che vuole entrare? Nulla, no, sentivo una vocina sotto, ma molto sotto, e magari propagazione o gente baramobile di passaggio. Va bene, Natalì, purtroppo, vabbè, mi dispiace sentirlo, ma prima o poi si arriva alla soluzione di questa storia. Devi solo avere molta pazienza e prenderla come filosofia. Infatti, deve avere pazienza Natalino, adesso ha l'appuntamento per il giorno 23, mi sembra, ancora qualche giorno, e poi lo chiamano per il ricovero e dunque risolve il problema, no? O meglio, glielo risolvono, perché glielo risolvono, io lo so che glielo risolvo, il problema è meglio così. Natalino, lo so, quando uno sta male e basta, no? Non c'è che dire, però... Tutto sommato non ti abbattere, cerca di reagire, che quello è molto ma molto importante. La reazione della persona, nonostante che stai male, devi sempre reagire, perché ci sono passato anch'io e ho dovuto anch'io fare la stessa cosa. Per cui riprendi la salita, così almeno ti svari un pochino. I emoji sono proprio forti, mi Giulio Russo. Mamma mia. Ed è per quello che non aggiunga la linea proprio. Lo so, ti capisco, purtroppo è così. Vediamo se Luca è imballato, ma è imballato là in questa radio, o Luca, o venga chi mi imballo a te. Sto finendo, sto mummificando il pacco con lo scotch. Adesso che stai facendo un imballaggio da 50 euro, che stai facendo, o da 100, per cui è fuori quattro giornali bici, lo vedrai quattro giornali bici, glieli metti dentro con una scatola larga, abbondante, e ci spedisci, cosa stai lì. Ma cosa fai? Viene da te a prendere il pacco, quel sistema lì utilizzi, oppure vai tu a consegnarlo alle poste o che so io dal corriere? No, passa al corriere, allora, lunedì passa. Passa al corriere lunedì, ho capito, vabbè, dai, va bene lo stesso, avanti Marco. Ciao Luca, e ogni tanto mi manda video di Radio Bede, roba bella, c'è nella poca di roba bella, vabbè, lui le rivende subito, però vabbè, di radio VHF già io anche ho fatto l'esperienza del K, però non, la verità non mi ha ispirato, quindi alla fine avevo eliminato anche quella. È un bel vedersi, però la passione è calata parecchio. Bene, Giulio, qua la lavatrice ha finito, ha dato l'avviso, io procedo, dai qua, se no che ora è? 7:30, se no non riesco a fare, dai, che poi mi volevo vedere un film in Santa Pace per intero dalle 9:15 quando iniziano, dai, se non c'è niente in TV me ne metto uno mio, a scelta. E quindi saluto Natalino, che all'ascolto, Luca, Giulio, ascoltano i vari, e ci sentiamo quando capita, ok? Riprendi Giulio. Ok Marco, ci sentiamo allora, dai, stammi bene, grazie per la chiacchieratina, alle prossime. Adesso aspetto che rientri Luca, che sta imballando, non so se sta imballando lui o se stanno imballando a lui, qualcuno, a stasera si dice così, mica ti imballo, amico, già lo sai, no Marco, cosa vuol dire, mica ti culo vuol dire, mica ti imballo, si vede che qualcuno sta imballando lui, va bene, ciao Marco, alle prossime, dai, stammi bene. ci sentiamo. Natalizio, sì, in ascolto. Io no, non ti forzo, non voglio forzarti, perché se stai male, stai male, basta, già ti comprendo. Per cui va bene così. Vediamo un po' questo messaggio, di chi è? Adesso lo vediamo. Luca, sono sempre qua in attesa. Ciao a tutti, ciao ciao. Già pronto, con l'indirizzo è tutto. Vado bene. Va bene, questo qui va a Bari, così, casa massima. Provincia di Bari dovrebbe essere, no? Sì, oh yeah. Ma va, Sergio Busto, all'ingresso, fatto, pronto. Ma no, io faccio passare il corriere. A parte che se lo porti in posta, prima devi farti la fila, a meno che non prenoti tramite il telefono. E secondariamente costa anche di più. Cioè, non ha già compreso, non solo devi fare la fila, devi pure pagare di più. Ho capito. Ma che corriere è quello? Ma un corriere di Amazon? Questo è SDA, il corriere. Io ho l'applicazione per spedire, capito? Entro sull'applicazione e spedisco e faccio tutto da lì, capito? Si chiama spediamo.it. Ho capito, sì. Praticamente paghi direttamente a lui, così, oppure devi fare un versamento a parte? No, io faccio tutto online, capito? Una volta che faccio il pagamento, loro mi mandano la bolla da attaccare al pacco, io la stampo e l'attacco al pacco. Ah, ho capito, sì, che tu dai tutti i cosi, no? Gli estremi dell'indirizzo, eccetera, e loro ti mandano. Ecco perché c'è il codice a barre in quel pacco. Ma dai, il codice a barre vai, pulpo. Quello sì, perché quando arriva il corriere lo spara e già lui è online, capito? Così chi lo deve ricevere può vedere che è già stato consegnato al corriere, poi se lo segue, se vedi sotto il codice a barre c'è un numero, quel numero lì loro aprono il sito di SDA o anche delle poste che li rimanda a SDA e guardano dove si trova il pacco in qualsiasi momento. Ho capito, ho capito. Insomma, sei organizzato, dai, ti capisco. Sei organizzato. Vabbè, già è un buon sistema questo, così non devi uscire di casa, vengono loro direttamente, se lo prendono e fanno tutta la spedizione che devono fare. Benissimo. Molto molto bene, e addirittura costa di meno di andare direttamente in agenzia dove da corriere oppure alle poste direttamente. Eh sì, un pacco del genere in posta mi sarebbe costato non meno di 15, di 16, 17, capito? Perché guardano anche il peso. Mentre io per pacchi così spendo dagli 8 ai 10,50€, 11 euro esagerando. Ah, ho capito, non è anche più conveniente. Bene, bene. Ed è anche sicuro, è tutta una cosa sicura, è tutta un'altra fila, non è che uno quando spedisce può perdere il pacco. Non mi è mai successo. Io passo il corriere dell'SDA, c'è anche il suo numero di telefono, mi manda anche un messaggio addirittura quando mi sta portando il pacco, anche se io lo vedo dal cellulare, che è in consegna. No, non me ne è mai capitato una cosa del genere.